L'assenza di relazioni aveva permesso alla principessa Scherbatov di dar prova da alcuni anni nei confronti dei Verdurin d'una fedeltà che faceva di lei qualcosa di più d'una fedele ordinaria, la fedele tipo, l'ideale che Madame Verdurin aveva a lungo creduto inaccessibile e che, giunto ormai all'età critica, trovava finalmente incarnato in quella nuova recluta femminile. Per quanti tormenti di gelosia ne fossero derivati alla padrona, non era mai accaduto che i più assidui tra i suoi fedeli non avessero staccato almeno una volta. I più casalinghi si lasciavano tentare da un viaggio, i più continenti avevano avuto qualche successo galante, i più robusti potevano buscarsi l'influenza, i più pigri essere richiamati alle armi, i più indifferenti andare a chiudere gli occhi alla madre morente. E invano allora Madame Verdurin li rimproverava, dicendo, come l'imperatrice romana, che era lei il solo generale cui la sua legione dovesse obbedienza. E come il Cristo o il Kaiser, che chiamava il padre e la madre quanto amava lei e non era pronto a lasciarli per seguirla, non era degno di lei. E che invece di infiacchirsi a letto o di lasciarsi abbindolare da una prostituta, avrebbero fatto meglio a restare accanto a lei, solo rimedio e sola volontà. Ma il destino, compiacendosi a volte di abbellire la fine delle esistenze che si protraggono a lungo, aveva fatto incontrare a Madame Verdurin la principessa Scherbatov. Essendo in urto con la sua famiglia ed esiliata dal suo paese, non avendo rapporti ormai che con la baronessa Putbus e la granduchessa Eudossia, delle quali, poiché lei non aveva voglia di incontrare le amiche della prima e la seconda non aveva voglia che le sue amiche incontrassero lei, andava unicamente nelle ore del mattino, quando Madame Verdurin stava ancora dormendo, non essendo rimasta a letto, a sua memoria, una sola volta dall'età di 12 anni, quando le era venuta il morbillo, avendo risposto il 31 dicembre a Madame Verdurin, che inquieta al pensiero di restar sola, le aveva chiesto all'ultimo momento se non avrebbe potuto, malgrado il capodanno, fermarsi a dormire da lei. Ma chi potrebbe impedirmelo? Oggi o in qualsiasi altro giorno? Del resto il capodanno si passa in famiglia e voi siete la mia famiglia, abitando in una pensione e cambiandola ogni volta che Verdurin cambiavano casa, seguendoli nelle loro villeggiature. La principessa aveva così ben realizzato, agli occhi di Madame Verdurin, il verso di Vigny. Tu sola mi sembrasti ciò che si cerca sempre. Che la presidentessa del piccolo circolo, desiderosa d'assicurarsi una fedele anche nella morte, le aveva proposto che quella fra loro due che fosse morta per ultima si facesse seppellire accanto all'altra. Di fronte agli estranei, fra i quali bisogna sempre annoverare la persona a cui mentiamo di più, perché è quella da cui ci riuscirebbe più penoso essere disprezzati, noi stessi, la principessa Scherbatov aveva cura di rappresentare le sue tre sole amicizie, con la granduchessa, con i Verdurin, con la baronessa Putbus, non già come le uniche che una serie di cataclismi indipendenti dalla sua volontà aveva lasciato emergere in mezzo alla distruzione e tutto il resto, ma come quelle che una libera scelta le aveva fatto preferire ad ogni altra e alle quali l'aveva indotta a limitarsi una certa inclinazione alla solitudine e alla semplicità. «Non vedo nessun altro», affermava, insistendo sul carattere inflessibile di quella che appariva più una regola adottata che una necessità subita, e aggiungeva: «Non frequento che tre case, come quegli autori i quali, temendo di non poter raggiungere la quarta, annunciano che la loro commedia avrà solo tre rappresentazioni». Prestassero o non prestassero fede a questa finzione, i Verdurin avevano aiutato la principessa a inculcarla nella mente dei fedeli, e costoro erano persuasi sia che la principessa, fra migliaia di relazioni che le si offrivano, avesse scelto i soli Verdurin, sia che i Verdurin, sollecitati invano da tutta la grande aristocrazia, avessero consentito a fare un'unica eccezione a favore della principessa. Ai loro occhi la principessa, troppo superiore al suo ambiente originario per non annoiarvisi, fra tutte le persone che avrebbe potuto frequentare, trovava gradevoli soltanto i Verdurin, e questi, reciprocamente, sordi alle avance di tutta l'aristocrazia che tendeva loro le braccia, avevano consentito a fare un'unica eccezione a favore di una gran dama più intelligente delle sue pari, la principessa Scherbatov. La principessa era ricchissima. Aveva tutte le prime un grande palco di platea in cui, con l'autorizzazione di Madame Verdurin, invitava i fedeli e mai nessun altro. Gli spettatori si indicavano l'un l'altro la sua persona enigmatica e pallida, invecchiata senza incanutire, anzi facendosi rossa come certi frutti durevoli e vizi delle siepi. Si ammiravano ad un tempo la sua potenza e la sua umiltà, giacché, pur essendo sempre circondata da un accademico, Brichot, da un celebre scienziato, Cottard, dal primo pianista del tempo e più tardi dal signor di Charlus, si cancellava, sceglieva apposta il palco più buio, non s'occupava affatto della sala, viveva esclusivamente per il piccolo gruppo che, un po' prima che la rappresentazione avesse termine, si ritirava al seguito di quella strana sovrana, non sprovvista di una sua bellezza timida, affascinante e logora. Ora, se Madame Scherbatov non guardava la sala, restava nell'ombra, era per cercare di dimenticare l'esistenza di un mondo vivo che desiderava appassionatamente e non poteva conoscere. La consorteria in una barcaccia era per lei ciò che per certi animali è l'immobilità quasi cadaverica di fronte al pericolo. Eppure, la passione di novità e di curiosità che agita i mondani faceva sì che questi prestassero forse più attenzione alla misteriosa sconosciuta che alle celebrità dei palchi di prima fila, nei quali tutti si recavano in visita. Ci si figurava che fosse diversa dalle persone conosciute, che una meravigliosa intelligenza, unita a una bontà divinatrice, facesse gravitare attorno a lei quella ristretta cerchia di persone eminenti. La principessa era costretta, se le si parlava di qualcuno o le si presentava qualcuno, a simulare una grande freddezza per mantenere la finzione del suo orrore del mondo. Non di meno, con l'appoggio di Cottard o di Madame Verdurin, qualcuno riusciva ad avvicinarla, e l'ebbrezza di lei nel conoscerlo era tale che dimenticava la favola dell'isolamento voluto e si dava follemente da fare per il nuovo venuto. Se si trattava di una persona decisamente mediocre, tutti si meravigliavano. È strano che la principessa, che non vuol mai conoscere nessuno, faccia un'eccezione per un essere così insignificante. Ma queste conoscenze fecondatrici erano rare, e la principessa viveva strettamente confinata nel giro dei fedeli. Cottard diceva molto più spesso «lo vedrò mercoledì dai Verdurin» che «lo vedrò martedì all'Académie». Inoltre, parlava dei mercoledì come di un'occupazione altrettanto importante e ineluttabile. Del resto, Cottard era una di quelle persone poco ricercate per le quali accettare un invito è un dovere non meno imperioso che obbedire a un ordine, per esempio un avviso del distretto o una convocazione giudiziaria. Bisognava che fosse chiamato per una visita davvero importante perché il mercoledì mollasse Verdurin. L'importanza, riferendosi d'altronde più alla qualità del malato che alla gravità della malattia. Pur essendo un bravo uomo, Cottard rinunciava infatti alle dolcezze del mercoledì per la rinite d'un ministro, non per un operaio colpito da apoplessia. E anche in questo caso diceva alla moglie: «Scusami con Madame Verdurin, avverti che arriverò in ritardo. Questa eccellenza avrebbe potuto scegliere un altro giorno per buscarsi il raffreddore». Un mercoledì, che la loro vecchia cuoca si era tagliata la vena del braccio, Cottard, già in smoking per andare dai Verdurin, aveva alzato le spalle quando la moglie gli aveva chiesto timidamente se non potesse medicare la ferita. «Ma come faccio, Leontine?» aveva esclamato con un gemito. «Vedi bene che ho il gilet bianco!» Per non irritare il marito, Madame Cottard aveva fatto venire d'urgenza il medico di guardia dall'ospedale. Questi, per arrivare prima, aveva preso una vettura, col risultato che, entrando in cortile, nel momento in cui la carrozza di Cottard usciva per portarlo dai Verdurin, si erano persi 5 minuti a manovrare avanti e indietro. Madame Cottard era imbarazzata che il medico di guardia vedesse il suo superiore in abito da sera. Cottard imprecava per il ritardo, forse con una punta di rimorso, e quando se ne andò era in preda a un pessimo umore, tanto che per dissiparglielo ci vollero tutti i piaceri del mercoledì. Se un cliente di Cottard gli chiedeva «Vedete mai Guermantes?», era con assoluta buona fede che il professore rispondeva «Proprio Guermantes? Forse no, non saprei, ma vedo tutto quell'ambiente in casa di certi miei amici. Sicuramente avrete sentito parlare dei Verdurin, conoscono tutti, e poi almeno loro non sono degli scicconi squattrinati, c'è del solido. In linea di massima, Madame Verdurin è valutata sui 35 milioni. Diamine, è qualcosa, 35 milioni. Così non bada certo a spese. Mi parlavate della duchessa di Guermantes. Vi dirò qual è la differenza. Madame Verdurin è una gran signora. La duchessa di Guermantes probabilmente è una spiantata. Afferrate la sfumatura, no? In ogni caso, che i Guermantes vadano o no a casa sua, Madame Verdurin riceve ed è ben altra gente, i de Sherbatov, i de Forcheville e tutti quanti, persone d'altissimo bordo, tutta la nobiltà di Francia e di Navarra, con cui mi vedreste parlare da pari a pari. Del resto quel genere di individui frequenta volentieri i principi della scienza. Aggiungeva Cottard con un sorriso d'amor proprio lusingato, impresso sulle sue labbra dall'orgogliosa soddisfazione non tanto di poter ormai riferire a se stesso un'espressione riservata un tempo ai Potin e ai Charcot, quanto di riuscire finalmente a servirsi in modo appropriato di tutte quelle che l'uso corrente autorizzava e che dopo tanti sforzi padroneggiava ormai perfettamente. Così, dopo avermi citato la principessa Sherbatov fra le persone ricevute da Madame Verdurin, Cottard aggiungeva strizzando l'occhio: «Vi è chiaro il genere di casa? Capite cosa voglio dire?» Voleva dire il massimo dello chic. Ora, ricevere una principessa che conosceva solo la granduchessa Eudossia non era molto. Ma quando anche la principessa Sherbatov non l'avesse conosciuta, questo non avrebbe scalfito l'opinione di Cottard circa la suprema eleganza del salotto Verdurin, nella sua gioia d'esservi ricevuto. Lo splendore del quale vediamo circonfuse le persone che frequentiamo non è più intrinseco di quello dei personaggi di teatro, per il cui abbigliamento è affatto inutile che l'impresario spenda centinaia di migliaia di franchi nell'acquisto di costumi d'epoca e di gioielli autentici destinati a non produrre alcun effetto. Quando un grande scenografo darà l'impressione di un lusso 1000 volte più suntuoso proiettando un fittizio fascio di luce su un farsetto di ruvida tela cosparso di cocci di bottiglia e su un mantello di carta. C'è chi ha passato la vita in mezzo a grandi della terra che per lui erano solo parenti noiosi e fastidiosi conoscenti, perché una consuetudine contratta sin dalla culla gli aveva spogliati ai suoi occhi di qualsiasi prestigio. Ma in compenso è bastato che questo aderisse per puro caso alle persone più oscure perché innumerevoli Cottard vivessero abbagliati da donne titolate il cui salotto immaginavano al centro delle eleganze aristocratiche e che non erano nemmeno all'altezza di Madame de Villeparisis e delle sue amiche, grandi dame decadute che l'aristocrazia, cresciuta assieme a loro, non frequentava più. No, le donne la cui amicizia ha fatto l'orgoglio di tanti, se costoro, pubblicando le proprie memorie, vi avessero ricordato i loro nomi o quelli delle signore che esse ricevevano, nessuno, né Madame de Guermantes né Madame de Cambremer, sarebbe riuscito a identificarle. Ma cosa importa? Un Cottard così alla sua baronessa o la sua marchesa, che per lui è la baronessa o la marchesa, come Marivaux, la baronessa di cui non si dice mai il nome e che nemmeno si sa se ne abbia mai avuto uno. Cottard è tanto più convinto di trovarvi compendiata l'aristocrazia, la quale ignora questa dama, in quanto più i titoli sono incerti e più spazio occupano le corone sui bicchieri, l'argenteria, la carta da lettere, i bauli. Parecchi Cottard, persuasi d'aver passato la vita nel cuore del Faubourg Saint-Germain, hanno forse nutrito la loro fantasia di sogni feudali più di chi è effettivamente vissuto in mezzo ai principi. Così come per il bottegaio, che ogni tanto la domenica va a visitare gli edifici del tempo antico, sono proprio a volte quelli di cui non c'è pietra che non sia del nostro e le cui volte sono state dipinte in azzurro a stelle d'oro da qualche allievo di Viollet-le-Duc, a dargli più forte la sensazione del Medioevo. La principessa sarà a Menville, farà il viaggio con noi, ma non vi presenterò subito. Sarà meglio che se ne occupi Madame Verdurin, a meno che non trovi un pretesto. In questo caso non me lo farò sfuggire, statene pur certo. «Di cosa parlavate?» chiese Saniette, che fece finta d'essere uscita a prendere un po' d'aria. «Citavo al signore», disse Brichot, «una frase che voi ben conoscete, di quello che è, a mio avviso, il primo dei fin di secolo, del secolo XVIII, si capisce, il nominato Charles Maurice, abate di Périgueux. Prometteva all'inizio d'essere un ottimo giornalista, ma ha preso una brutta strada, voglio dire che è diventato ministro. Sono disgrazie che capitano nella vita. Politico poco scrupoloso, del resto, che con le sue arie sdegnose da gran signore di razza, non si peritava al momento opportuno di lavorare, è il caso di dirlo, per il re di Prussia, ed è morto con indosso i panni del centro-sinistra.